abbassato lo sguardo, spento il sorriso, nascosta la mano. Quante parole lasciate cadere, quanti silenzi ti chiedo. Cose, pensiero improvviso, la tua tenerezza.